Amen. Amen. Amen, Chiesa. Sei pronto a dare ancora gloria all'unico argomento? Amen. Vogliamo accomodarci? Che bello essere insieme, sì? E che Lui sia sempre l'unico argomento. Qualche giorno fa, da un paio di settimane, siamo tornati, io e mio marito, da una vacanza. Abbiamo celebrato 13 anni insieme e quindi siamo andati in vacanza. Sì, è bello, siamo bellissimi, ci amiamo e quindi siamo stati in vacanza insieme, siamo stati qualche giorno in Portogallo. E in Portogallo abbiamo visto due città, una è Porto e l'altra è Lisbona. E ci piace essere ispirati da nuovi posti, no? Ti riempiono, ti danno possibilità di riflettere di più. Ed è successo questo, che nel momento in cui sono entrata in questo posto, che vi farò vedere tra un po', lo Spirito Santo ha parlato al mio cuore. È come se la voce dello Spirito Santo stesse mettendo nella mia mente quelle parole per dire: così è, Sara, capiscilo ora, perché te lo voglio spiegare bene. E vi faccio vedere questo posto, l'ho già fatto vedere anche a Mottola. E questo è, mandaci qualche foto, questo è un monastero che si chiama la Madonna del Carmelo, non so dirlo in portoghese, ma si chiama così in italiano. E quello che noi abbiamo visto è questa struttura. Guardate com'è, è assurda, non ho mai visto un posto così drammatico, così pieno di potenza, pieno di forza, pieno di pathos. E io e Vito eravamo lì in giro e ci guardavamo questa struttura ed eravamo estasiati dalla bellezza di questa struttura, ma anche dalla stranezza di questa struttura. Questo è uno degli architravi, come era veramente, però c'è ancora un'altra foto. Questo è il progetto di come doveva essere veramente. L'altra foto, Raffa. Questo è come era nell'origine. Esattamente questo. C'erano delle colonne, c'era un tetto, c'era un soffitto, c'erano quei rosoni incredibili, c'era un portale stupendo, c'erano delle colonne interne. Ma è successo questo, che questo monastero è stato costruito intorno al 1300 e nel 1855 Lisbona è stata rasa al suolo da un enorme terremoto, e questo monastero ha vissuto prima un terremoto e poi anche un incendio. E le foto che vi ho fatto vedere era quello che è rimasto da un terremoto e da un incendio. E mentre eravamo lì a camminare, a fare le foto, chiaramente mio marito fa sempre le foto più belle delle mie, queste infatti sono le foto mie, sono bellissime, vero? Grazie fan, poi vi pago. Mio marito fa sempre delle foto più belle, ma va bene, ci accontentiamo. Mentre eravamo lì, il Signore mette nel mio cuore queste parole, ed è una storia che conosciamo benissimo. Dice così: perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo avveduto, intelligente, che ha costruito la sua casa, diciamolo insieme, sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato, hanno investito quella casa, i terremoti, gli incendi, ma essa non è caduta perché era fondata, diciamolo ancora insieme, sulla roccia. Che bello! E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, perché Gesù è colui che ha detto queste parole, ci mette in chiaro, bianco su nero, quello che vuole concludere con tutto questo, è paragonato ad un uomo stolto, che significa stupido, non intelligente, che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa, ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. Siete con me a Lisbona, in questo monastero, in queste incredibili rovine, è lo Spirito Santo che mi parlava di questo. Sara, non essere stupida. Così mi ha detto: Sara, non essere stupida, non costruire la tua casa sulla sabbia, costruisci la tua casa su di me che sono la roccia. Amen? Possiamo andare a casa, perché questo è il senso di questo messaggio. Il titolo di questo messaggio è Fatti per restare. Questo è quello che Gesù ci dice. Gesù vuole che la tua vita sia fatta per restare in piedi. Gesù non ti ha garantito nel suo essere sulla terra e tutta la sua predicazione che nulla sarà mai vicino a te, che nulla ti capiterà mai. Non esiste un solo verso in cui Gesù ci dice: guardate che non vi succederà nulla se voi credete in me, ma piuttosto Gesù ha detto: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi, anzi voi siete una casa, se la costruite sulla roccia, i venti arrivano, i terremoti arrivano, gli incendi arrivano, ma non crolla. Con Gesù non c'è garanzia che non ci accada mai nulla, con Gesù c'è garanzia che noi rimaniamo in piedi nonostante tutto. Ti piace? Questo è quello che Gesù ha voluto dire alla fine del sermone sul monte. Dopo 5 ore circa di predicazione, che troviamo da Matteo 5 fino a Matteo 7, Gesù finisce il suo manifesto rivoluzionario. Gesù nel sermone sul monte ha detto tutte le verità straordinarie, diverse, di rottura con tutto quello che era la religione ebraica fino a quel momento, e finisce quel sermone con migliaia e migliaia di persone, finisce quel messaggio con: se vuoi essere stupido, costruisci la tua casa sulla sabbia, se vuoi essere intelligente, costruisci la tua casa sulla roccia. E se n'è andata. Incredibile. Incredibile, Gesù ha concluso la sua predicazione, la call to action, l'appello di Gesù è stato: hai ascoltato queste mie parole, 5 ore di predicazioni, ora mettile in pratica, perché se le metti in pratica tu rimarrai in piedi, se non le metti in pratica, mi dispiace, sei uno stupido. Questo è quello che ha detto Gesù, e sai come lo ha detto nel verso 29, Raffaella, se me lo puoi mettere di nuovo, nel 28, scusami, c'è scritto: quando Gesù ebbe finito questi discorsi, 5 ore di discorsi, la folla si stupiva, perché? Si stupiva del suo insegnamento, perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come uno scriba. Questo è scritto proprio che era quello che tra la folla veniva fuori. La folla diceva di quest'uomo: oh mamma mia, ma questo ha autorità. Questo non ha fatto solamente miracoli, e attenzione, questo era l'inizio del ministero di Gesù, quindi la sua fama non era ancora straespansa, non aveva ancora tutti i follower che lo seguivano per i miracoli che Gesù faceva, ma quello che la gente ha riconosciuto è il sapore in bocca che le parole di Gesù hanno lasciato. La gente ha detto: quest'uomo è diverso, quest'uomo parla come uno che ha autorità, e lo hanno paragonato subito agli scribi, perché gli scribi erano coloro che parlavano delle leggi che erano contenute nella parola di Dio, gli scribi erano quelli che studiavano e che davano al popolo indicazioni, gli scribi erano riconosciuti da una posizione. Gli scribi erano riconoscibili attraverso i loro indumenti, avevano dei paramenti sacri. Il popolo, quando gli scribi camminavano, li potevano riconoscere. Eppure il popolo dice: è diverso da uno scriba. Ascolta ora, gli scribi avevano la posizione per parlare delle cose al popolo, eppure la folla ha riconosciuto solo in Gesù un'autorità. Non ha un'autorità che non veniva dalla sua posizione, perché Gesù non è venuto sulla terra come il re che cavalca sul cavallo più alto, bianco, vestito di paramenti dorati, insieme alle stelle che cadevano e insieme al suono della tromba. Gesù è venuto sulla terra ed è salito su un'asina. Gesù è venuto sulla terra e ha indossato gli stessi abiti che le persone del tempo indossavano. Gesù ha camminato sulle stesse strade delle persone del tempo. Perché? Perché Gesù è venuto come il figlio di Dio, mandato sulla terra per salvare tutti quanti noi. È da lì che lui aveva un'autorità. È dalla posizione che aveva in Dio che veniva la sua autorità di parlare e lasciare un gusto differente. Gesù non ha lasciato il gusto degli scribi, un gusto di legalismo, un gusto che faceva sentire le persone perennemente in colpa e sempre pronte a doversi strappare i vestiti, a portare delle offerte nel Tempio. Gesù ha lasciato in ogni persona che lo ascoltava un sapore di autorità, che non ha mai fatto sentire le persone separate, che non ha mai fatto sentire chiunque allontanato dal suo messaggio, ma che sempre li ha coinvolti. Sempre ha avvicinato le persone al suo amore, al suo cuore. Perché? perché quando lui parla, lui ha autorità. E Gesù è l'unico che ha un'autorità vera. Chiesa, Gesù è l'unico che ha un'autorità vera. Per questo abbiamo bisogno di mettere quelle parole che lui ci insegna, la sua parola, in profondità. Per questo abbiamo bisogno che le sue parole scendano dove nessun altro arriva. Dove i concetti, i ragionamenti, le riflessioni, la meta-analisi non può arrivare, le parole di Gesù hanno il potere di arrivare perché lui ha autorità. Amen? Ti piace, Chiesa? Ti piace? Tu sei sotto un'autorità stupenda. Tu sei sotto la migliore autorità che ti potesse mai capitare, che è quella di Cristo Gesù. E se lui ha questa autorità, noi abbiamo necessità di far scendere quelle parole nella nostra profondità. Vediamo come si fa a non essere stupidi, come si fa ad essere intelligenti. Lo leggiamo nella stessa storia, da Luca 6 al verso 47-48. Mi piace come dice qui Luca. Luca dice: chiunque viene a me, le stesse parole di Gesù, ma con altri termini, chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi assomiglia. Ascolta ora. Assomiglia a un uomo il quale, costruendo una casa, ha scavato e scavato in profondità. Ha scavato e ha scavato in profondità. Ha posto il fondamento sulla roccia. È venuta un'alluvione, la fiumana ha investito quella casa e non ha potuto smuoverla. Perché? Perché era costruita bene. Perché era costruita bene. Chiesa, quando arrivano le tempeste, quando arriva la pioggia, quando arriva il terremoto, quando arriva l'incendio, quando qualcosa comincia a non andare bene, è lì che c'è il test della costruzione. È lì che puoi dire promosso o bocciato. È lì che possiamo riflettere su come abbiamo fatto entrare la parola di Dio. Dove è entrato il messaggio di Cristo Gesù? Su che cosa abbiamo costruito la nostra casa? Abbiamo fatto entrare quelle parole in profondità o le abbiamo lasciate nella superficie? Voglio farti due esempi. Uno è, forse hai ascoltato le belle parole di Dio, hai riconosciuto che erano per te, è tutto bello e si festeggia sempre. Perché vieni in una chiesa bella, nella chiesa bella ti dicono che tu sei bello, che Gesù è bellissimo, la musica è bellissima, le persone accanto a te sono stupende, il pastore over the top, cioè ce l'abbiamo solo noi, il nostro pastore, e quindi tu pensi che sì, Gesù è entrato nella mia profondità, perché vengo in chiesa, è tutto bello, il pastore migliore del mondo, vado in un gruppo stupendo, chi è accanto a me è fantastico. E poi succede che Gesù ti chiede: Sara, com'è nella tua sessualità? Che c'entra? Io vado nella chiesa, è tutto bello, Gesù è buono, tu sei vivo, il pastore è fantastico. E Gesù ci chiede: Sara, come va nelle tue finanze? Ma che c'entra, Gesù? Io vado nella chiesa bella, il pastore è bello, il messaggio è bello, la musica mi piace. E Gesù continua e ti chiede: Sara, come va nei tuoi pensieri? Ma che c'entra, Gesù? C'entra! Perché? Perché ad un certo punto Gesù vorrà vedere dove l'hai fatto entrare, perché succederà qualcosa, e non voglio essere una profetessa del male, perché arriva sempre il momento in cui la nostra fede, la nostra decisione viene testata, e c'è sempre un momento in cui Gesù dice: Sara, com'è questa cosa? E se noi abbiamo fatto entrare Gesù dappertutto, se noi abbiamo fatto entrare Gesù nelle nostre finanze, nella nostra sessualità, nei nostri pensieri, nella nostra casa, nella nostra famiglia, nel modo in cui abbiamo di concepire il mondo. Se Gesù è entrato e quelle cose diventano fondate sulla roccia, allora ti dico che la tua relazione con Gesù prenderà tutta una piega bellissima, differente, straordinaria. E sai una cosa? Da quel momento in poi può accaderti di tutto, ma tu rimani sulla roccia. Tu rimani sulla roccia. Ancora, hai ascoltato, ti piace, credi in Gesù. La prima tempesta è arrivata, la seconda tempesta è arrivata, poi è arrivata anche la pioggia e il vento, e ad un certo punto dice Gesù: era meglio se non ti avevo nella mia vita, perché succedono tutte a me. A quanti capita un'esperienza del genere? Sinceri? Beh, qualcuno è sincero. Ho voluto far alzare la mano perché questa sono io. Perché ad un certo punto sembra che le cose capitano tutte a noi. E gli anni... Allora, prima c'è di gloria in gloria. E poi sembra che di gloria in gloria andiamo di problemi in problemi. E dici, ma Gesù, ma allora che senso ha? Gesù, ma tutti a me, Gesù, ma non li puoi dare a qualcun altro queste cose? No, tutti a me li posso dire, anche nome e cognome, non sto scherzando. Però a un certo punto dici, ma Gesù, ma è troppo. E lui dice, Sara, tu sei fatta per rimanere in piedi. Io ti ho fatto per rimanere in piedi. Perché? Perché non sei tu che rimane in piedi, ma sono io che rimango in piedi, è il nostro Cristo Gesù che rimane in piedi. Vi ricordate le foto di quel monastero? Vediamole ancora di nuovo. Guarda un po'. Sono crollate tutte le parti più esterne, il soffitto, i rosoni, le finestre, alcune colonne, ma gli architravi, quelli che scaricano il peso per terra, giusto Antonio? E le colonne che sono state fatte per forza in profondità, e i muri portanti che scaricano anche loro il peso per terra, quelli sono rimasti in piedi. Le parti più esterne, le parti che non erano ancorate a quel pavimento, a quella base, sono crollate. E non fa niente. Perché? Perché Gesù ti fa rimanere in piedi se sei fondato su quella roccia. E tutte le cose più esterne, tutte... Non so se tu hai mai visto una casa senza mobili. La casa è bella quando vai e non ci sono né le pitturazioni fatte, né i mobili, né l'arredamento. Quando vai, lì puoi riconoscere se una casa è fatta bene o è fatta male. Una casa che è fatta bene non ha nessuna umidità. Ora so che ci sono molti più esperti di me in questo ambito, ma provo a erudirmi. Non c'è umidità. E questo vuol dire che le pareti si sono fatte asciugare bene, giusto Pinuccio? Bene. Ci sono dei muri portanti che hanno lo spessore giusto per mantenere il primo piano, il piano superiore e il piano ancora. E quando tutte queste cose sono sane, allora puoi dire questa casa è fatta bene. Una casa che vai ed è bella, ma è coperta con la buona pitturazione, ha dei buoni mobili, può ingannarti, perché puoi dire wow, questa è una casa bella, ma quando togli i mobili belli e quando togli la giusta pitturazione e quando togli le luci belle, allora rimane uno scheletro. Bene, quello che sto dicendo è che quando tutte le cose belle, quello che gli altri vedono, tutte le parti che sempre gli altri vedono di noi, quando ci vengono tolte, allora lì rimane lo scheletro. E ci sono momenti in cui noi rimaniamo senza arredamento, senza pareti colorate. Noi rimaniamo così come siamo, ed è lì che Dio dice, Sara, se sei intelligente, allora la tua casa rimarrà in piedi, se sei stata stupida, allora la tua casa crollerà. Io voglio essere una casa buona, forse non sempre bella, forse non sempre circondata da accessori inutili o cose che tutti quanti gli altri vedono. Io voglio che quando Gesù entra nella mia casa dica, questa casa è fatta bene. E Gesù ti dirà, quando entra nella tua casa, che è fatta bene, se trova che le fondamenta siano su di Lui, sulla roccia. se hai scavato e scavato profondamente, se non ti sei vergognato, se hai fatto uscire il terreno marcio, se hai rotto quelle pietre, se hai combattuto con quella durezza, se hai fatto entrare lì Cristo Gesù, allora questa casa rimarrà in piedi. Amen? Ti piace? E quando siamo distrutti, quando non abbiamo gli arredamenti, quando vengono via le pareti, quando non abbiamo le finestre, sai cosa? Siamo distrutti, però rimaniamo in piedi. E quando rimaniamo in piedi, diventiamo un capolavoro. Questo monastero è stato uno dei posti più belli che io abbia visto in tutta la mia vita. Perché era bellissimo, era un capolavoro, era un'opera d'arte. Potevi girarti dappertutto e leggere bellezza. E non la leggevi dai vetri, dei rosoni colorati, perché non c'erano, ma lo leggevi dalle colonne, lo leggevi dagli architravi, lo leggevi dalle pareti che erano rimaste in piedi. Sai una cosa? Quando nella nostra vita le cose non importanti crollano e rimane chi sei veramente, rimane chi sei in Cristo Gesù, diventi un capolavoro per qualcuno. Tu diventi un capolavoro per qualcun altro. Qualcun altro entrerà nella tua vita e dirà: wow, bellissimo! Fai in modo che altri entrino nella tua casa. Fai in modo che altri calpestino quelle basi. Noi abbiamo i gruppi. Ogni settimana abbiamo l'opportunità di far entrare gente a casa nostra, e non intendo nella nostra abitazione. Intendo gente nella nostra casa. In chi siamo. I gruppi ci danno l'opportunità di essere sinceri, di essere veri, di essere trasparenti, di non avere la pitturazione fatta, i mobili belli, ma i gruppi ci danno l'opportunità di far vedere veramente chi siamo agli altri. Sai una cosa? Quando sei lesionato, quando sei frantumato, quando sei distrutto ma rimani in piedi, gli altri si sentiranno bene con te, perché vedranno in te un esempio da seguire. Perché vedranno in te una persona che ha scelto di fare della roccia il suo motivo di vita, e non la propria forza, e non il proprio orgoglio, e non le proprie esperienze, ma chi è in Cristo Gesù. E wow, Chiesa, noi abbiamo i gruppi per farlo. Noi abbiamo i gruppi, e settimanalmente hai la possibilità che qualcuno ti dica: sei un capolavoro, sei un capolavoro, sei un capolavoro. Vuoi dirlo alla persona vicino a te? Tu sei un capolavoro. Tu sei un capolavoro. Wow, se sei fidanzato, tua moglie e tuo marito è accanto, è un'opportunità unica. Sfruttala bene, sfruttala bene, sfruttala bene, bravissimi. Potete aggiungere anche qualche altra parola, però questa è importante. Ho ascoltato una storia, voglio condividerla con voi. Proprio sul capolavoro di Dio. Ho ascoltato questa storia la settimana scorsa, ve la voglio portare. E il pastore, come si chiama? Si chiama Iosif, giusto, che dovrebbe essere Giuseppe in rumeno. Il pastore Iosif era in una chiesa la settimana scorsa, la settimana scorsa, e ha raccontato una parte della sua testimonianza. Lui è diventato pastore nel 68 in Romania, nel pieno dell'epoca comunista. Si è sposato e ha avuto dei figli, e intorno al 70-71 il governo rumeno ha emesso 8 emendamenti contro i cristiani in Romania. Ha radunato tutti i pastori della nazione, tra cui lui, e ha detto 8 principi che dovevano rispettare, tra cui: uno, l'Evangelo non poteva essere predicato a giovani e a bambini; 2, l'Evangelo doveva essere predicato solamente in alcuni momenti; 3, potevano essere battezzate solamente persone che erano figli di credenti, già credenti. Quindi questo voleva dire che l'Evangelo doveva morire lì. Ancora, un altro emendamento era che i pastori non potevano battezzare prima di mandare la lista delle persone con i nomi al governo, e il governo doveva dare la loro approvazione prima di farli battezzare, e altri principi come questi. E lui, infuocato per Cristo, ha cominciato a vivere una vera e propria persecuzione, lui e la sua famiglia. La sua famiglia continuava a proclamare il Vangelo ed erano perennemente in pericolo di vita. E così, intorno agli anni 70 circa, si apre una porta per lui e va a studiare ad Oxford. Alla fine, e quindi lascia sua moglie e i suoi figli in pericolo, ma sente proprio da parte di Dio che quella era una porta che Dio aveva aperto per lui. Va ad Oxford, studia, e alla fine del corso di studi gli viene chiesto di fare una tesi. E Dio gli dice: figlio mio, scrivi quello che sta accadendo in Romania. Scrivi degli 8 emendamenti che il governo rumeno ha emesso contro i cristiani. E lui ha detto di sì. E lui ha cominciato a scrivere questa tesi e sapeva che mentre la scriveva stava scrivendo la sua condanna a morte, perché non appena il suo nome sarebbe stato associato a questa tesi, sarebbe stato ucciso lui e la sua famiglia. Comunque la scrive, si rinchiude in un posto segreto, chiude la tesi, scrive la tesi in 2 settimane, questa tesi esce come se fosse stata già scritta nel suo cuore, e lui la scrive, la mette su carta e la dà a un suo amico del governo rumeno. E lui gli dice: sei un folle, il governo arriverà direttamente a te e alla tua famiglia e sarete giustiziati. E lui dice: Dio me l'ha chiesto, io lo faccio comunque. Ha mandato quella tesi in Inghilterra. In Inghilterra traducono la tesi in inglese e incredibilmente questa tesi arriva negli Stati Uniti, al governo americano. E viene letta non come una tesi di uno studente, ma come un documento politico. Quello che succede è che a dicembre del 71 il governatore della Romania, che è Ceausescu, giusto, ho pronunciato bene, va negli Stati Uniti per chiudere una negoziazione commerciale, e mentre era lì con i ministri arriva qualcuno, bussa all'ufficio e dice: fermate un attimo il tutto, in Romania sta accadendo questo e questo e questo, noi come governo americano non possiamo stipulare una negoziazione commerciale con un paese che non garantisca la libertà religiosa, quindi fino a quando questa situazione non cambia noi non possiamo concludere l'accordo. Ceausescu prende questa tesi, torna nel suo paese, raduna i pastori della nazione, tra cui lui, e promette davanti a tutta la nazione che i cristiani non sarebbero stati più perseguitati e che da quel momento in poi in Romania ci sarebbe stata libertà religiosa. Torna negli Stati Uniti, gli Stati Uniti aspettano un documento da parte dei pastori rumeni, e solamente quando questo documento torna negli Stati Uniti, gli Stati Uniti fanno una negoziazione con la Romania. Tutto quanto perché qualcuno ha detto sì a Dio. E la storia di questo pastore, mentre la raccontava, lui diceva solamente questo: io ho solo ubbidito e ho scritto e Dio ha fatto il resto. Perché vi ho raccontato questa storia? Perché la vita di quest'uomo è la dimostrazione che quando siamo sulla roccia, tutto quello che noi possiamo vivere è nella sovranità incredibile di Dio. E Dio la trasforma in qualcosa di straordinario. Dio è capace di trasformare anche le cose che per noi sono più fuori controllo di tutte in un capolavoro per qualcun altro. E sai perché? Non per la nostra gloria. Non perché noi dobbiamo diventare bravi, ma per la sua gloria. Perché Lui venga glorificato. Noi non siamo fatti per restare in piedi per noi, noi siamo fatti per restare in piedi per dare gloria a Lui. E questo è il motivo della nostra vita, Chiesa. E perché mi rivolgo a noi come Chiesa? Tu sei Chiesa, tu sei qui per restare, tu sei qui per restare. Tu non sei qui per vivere il primo turbamento e scappare via lontano dal Signore, lontano dalla Chiesa, lontano dal capogruppo, lontano da chiunque, ma tu sei qui perché devi restare in piedi. E non resterai in piedi perché sei in una bella chiesa, tu resterai in piedi se avrai costruito la tua casa sulla roccia, se avrai scavato e scavato in profondità, se non ti sarai stancato alla prima pioggia, alla prima tempesta, al primo terremoto, ma sarai rimasto in piedi per essere un capolavoro per molti. E sai una cosa? La Chiesa è fatta di persone che restano in piedi, che non sono perfette, che non sono belle, ma è fatta di strutture, di edifici che sono fatti sulla roccia. Per quello esiste la Chiesa, perché insieme possiamo glorificare Dio e dire: è Lui che lo ha fatto. Io sono scritto, è Lui che lo ha fatto. Io sono rimasta ferma, è Lui che lo ha fatto. E come hai fatto? Io non lo so, è lui che l'ha fatto. Ma come fai a? Non lo so, è lui che lo fa. Ma come mai tu sei? Non lo so. Ma com'è che hai ancora gioia? Non lo so, è lui in me. Com'è che hai ancora speranza? È lui in me. È una casa che rimane sulla roccia, è una casa che afferma con piena speranza, con piena fiducia che io rimarrò in piedi nonostante tutto. Io rimarrò in piedi nonostante tutto perché Cristo è forte in me, perché Lui è glorificato in me. Amen, Chiesa? Vogliamo alzarci in piedi e presentarci davanti a Dio per ubbidire. Vi ricordate quello che ha detto Gesù? Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica. Chiesa, noi non siamo qui solo per ascoltare un bel messaggio, per ascoltare della bella musica, per ascoltare che Gesù ti ama e che Gesù è vivo. Amen, è bellissimo. Ma tu sei qui per ascoltare questo, ma anche per metterlo in pratica. La Chiesa non è la Chiesa della domenica, la Chiesa è da domani mattina. Come siamo a casa? Come sei sul tuo lavoro, come sei a scuola, come sei con la tua famiglia, questa è la Chiesa. La Chiesa è glorificare il Signore, non qui. Qui è tutto molto bello, è bellissimo, io amo la mia Chiesa è la più bella di tutte, la mia Chiesa, la tua Chiesa è la più bella di tutte, ma non basta, non basta. Noi siamo fatti per rimanere in piedi e per glorificare il nome del nostro potente Dio. Tu sei fatto per glorificare quale Dio potente hai ed è Lui che ti rende stabile nonostante tutto. È Lui che ti può rendere stabile a prescindere dalle stagioni che vivi, è Lui che ti fa essere sulla roccia. E sai come sei sulla roccia? Ti possono muovere tutto, tutti ti possono venire lì a muovere, ma tu rimani e perdi pezzi, ma che importa se perdi pezzi? Ma rimani perché Cristo Gesù è forte in noi. Amen. Chiesa, vogliamo alzare le nostre mani e cominciare a dire: Gesù, ti prego, vieni in profondità. Io ti chiedo di essere sincero con Dio. Presenta le tue profondità, quelle che Dio ti sta chiedendo di scavare, di essere quell'uomo intelligente che scava e scava in profondità. Non essere stupido per piacere stasera, non essere stupido. Non essere stupido, sii intelligente, di Signore Gesù, io voglio farti entrare in profondità. Non voglio che il primo vento, la prima discussione, il primo confronto, la prima fase complicata, la prima tempesta, il primo terremoto mi porti via. Io voglio rimanere per darti gloria, io voglio rimanere perché tu mi hai fatto per rimanere. Gloria a te, Padre. Gesù, tu ci hai fatti per rimanere in piedi in te. Gesù, grazie perché tu non chiedi a noi di avere delle forze soprannaturali e straordinarie, ma tu sei colui che compie in noi il soprannaturale, tu sei colui che ci fa mantenere in piedi, tu sei colui che dà stabilità alla nostra vita, tu sei colui nel quale noi possiamo credere e confessare che rimarremo in piedi nonostante tutto. E noi vogliamo glorificare il tuo nome. Oh Gesù, non esiste nessun altro nome che vogliamo glorificare se non il tuo. Gesù, vogliamo dare gloria a te, vogliamo che tu sia l'unico argomento della nostra vita, vogliamo che tu sia l'unica lode nella nostra vita, vogliamo che il tuo nome potente sia glorificato più di ogni altra stagione e che in ogni stagione il nostro manifesto sia: io rimango in piedi perché ho Gesù, io rimango in piedi perché sono su Cristo, io rimango in piedi perché tu sei forte in me. Gesù, io ti prego per una chiesa che non è mossa dal vento. Ti prego, Gesù, che questa chiesa, che i gruppi della nostra chiesa, che ogni persona che in questo momento sta facendo una scelta per te, rimanga in piedi, rimanga ancorata, rimanga fondata bene, perché ha scavato e ha scavato in profondità e ha scavato sulla roccia e ha costruito sulla roccia. Gesù, togli la sabbia dalla nostra vita. Facci vedere la sabbia, perché possiamo riconoscerla e toglierla e farci costruire sulla roccia. Nel tuo nome, Gesù. Nel tuo nome, Gesù. Chiesa, continuiamo a dirlo a Dio. Fai entrare Gesù. Fai entrare Gesù in profondità. Fai entrare Gesù in profondità. Lui vuole entrare in profondità stasera. E Lui parla come uno che ha l'autorità. Non come tutti gli altri, Lui parla come uno che ha autorità perché ti ama. Fallo entrare in profondità.